For all of mommy and all of the girl and lady in the world, have a like, a dream, and a white Iceland in the glory of life, completely freedom, with a spirit outlook, and a moment of the big love vision of last big revelation vision of no reason, and a big white Iceman with his love and some friends. Maybe. I really maybe. Comprerei se potessi una casa al mare su un'isola bianca, onda su onda, col sole che fiocca, ove il tuo nome vissuto suona il mio verso di questa canzone che scuota nuvole dove sereno stenta lacrima. Ti comprerei se potessi una casa al mare su un'isola bianca, un'onda su onda col sole che fiocca, ove il tuo nome vissuto suona il mio verso di questa canzone che scuota nuvole dove sereno stenta lacrima. Ti comprerei poi un cratere del sorriso del volto della luna per dirti che in parte hai reso possibile sognare, onda su onda con il mare, la sera riflessione di tutto di noi, del tempo indietro che non torna, ma che così ora sereno torna a espirare. Ti comprerei poi un cratere del sorriso del volto della luna per dirti che in parte hai reso possibile il sognare, onda su onda con il mare, la sera riflessione di tutto di noi, del tempo indietro che non torna, ma che così ora sereno torna a ispirare. Poi la vedi la sabbia, mezza barca arenata pronta alla traversata verso quella piccola spiaggia che ricorda quell'ombrellone dove tu desti il primo bacio d'amore che ora ricordi, ricordi sereni ora tu vesti e desti l'unia di semina buona. Ora che vedi lontano il cattivo dei pensieri, sono solo parole di musa, il tuo corpo profuma di melodia buona. Il tuo corpo che inizia a profumare di melodia buona dal nulla. The special wish of every mommy, lady, and a girl in life, something like that. Quando poi sarà tutto come nei nostri sogni, con la tua dolce metà, bella tua dea, come mamma e papà, sogni di Peter Pan, lontani dai pirati, lontani dalla realtà, da questa troppo mortificati. Quando poi forse sarà poi come in un film with special end, forse doveva essere o forse favola sarà, il sole nuovo, il nome del primo sogno, e la coppia dei cigni neri si innamorerà, la coppia dei cigni neri si innamorerà, si innamorerà, si innamorerà, con lo stesso per mamma e papà, un bacio della pace nel mondo sarà, la coppia dei cigni neri, la coppia dei cigni neri, dei cigni neri. Quindi, cosa sarà? Che cosa sarà di noi? 2, 3, 4. Quindi, che cosa sarà di noi? 2, 3 e 4. Un'isola che non c'è tra le tue dolci mani di calore, d'amore difensore. Forse se vuoi un giorno io e te lì potremmo volare, potremmo volare. Dove devo andare io? Ci devono essere solo le onde del mare e il cinguettio di 3 piccoli passeri uccellini al canto di memorie che dentro fanno eco in fiore. L'isola dell'amore, l'isola dell'amore, l'isola dell'amore, il fiore di ogni raggiunge l'amore, del tuo veleno d'amore, l'isola dell'amore, l'isola di ogni guarigione del tuo veleno d'amore. Check your notes about the secret love, girl, lady. Oh, wanna Iceland with me? My friend can come run. Who made a Iceland with me? In a big trip in a Iceland. All lovers, of our lovers. A new world, strange, eternal, fabulous life. Yeah? Wanna make that trip with me in a special Iceland of our wildest lovers? A never ending fabulous life in a white Iceland without enemy, without a mortal could be beat ourselves. We know how I am, no stand up. Ooh, what my special friendly can't come right in a white Iceland with me. And an eternal fabulous life. 1, 2, 3, party. Eternal love, fabulous. Who are you, my secret lover? Hiding in the shadow. Give me your name. Give me your number. Put it a photo in some brain. Phone me. Mail me. Love me. We are coming to take a flight. Of the company, eternal fabulous love. The buying of the company, eternal fabulous love. Eternal fabulous love. This song is for you, mommy. I know you love the white Iceland, eternal fabulous love. And a big supreme party never ending. With a spiritual life where nobody can come round. Who want to say the list? Who can come with me? Yeah. All the lovers want eternal love life without an enemy, without a noise around. Just a wave talking like a poetry around.